Ok, nelle puntate precedenti, la puntata precedente l'ho denominata un ebreo, un depresso, un nero e due pazzi. Depresso e Adone. Il Ah. resto penso sia Ok. semplice. Andiamo avanti. Mibel parla con Adelfo, hanno un loro momento dove Adelfo cerca di scusarsi in qualche maniera nei confronti di Nivel e giustificare le sue azioni di quello che ha fatto tanto tempo fa. Praticamente era caduto in brutti giri e per la Corona Nera doveva, insomma, fare dei lavori sporchi finché però la Mukelos non l'ha beccato e gli ha detto: "Senti, io mi tappo, cioè mi metto un paraocchi, faccio come se non fosse successo, se tu metterai questa spora nei campi di Nivel." Adelfo ha detto di sì, ha fatto quello che ha fatto, è successo quello che è successo. Fast forward ad oggi, Nibel decide di risparmiarlo. E appunto va a prendere quello che Adelfo aveva rubato. Quindi le 11 mana unit, un bel po' di mana penny e i suoi vestiti eleganti. Nel mentre che fa questo, gli altri decidono di, diciamo, rovistare nella libreria del tempio e troviamo delle informazioni sulla prima anomalia registrata, che è la scomparsa di Aidur Leusum. Poi facendo un attimino un 2 più 2, un'altra anomalia che abbiamo trovato è stata la comparsa e la scomparsa successivamente di questo tizio con le ali nere. Iniziamo a collegare i pallini. Anomalia era collegata ad un'altra anomalia, c'era letteralmente la freccina e dire clicca su questo link. Ok, perfetto, abbiamo cliccato sul link, si è fatto questo sigillo bello grande e Cici ha deciso di dire: "Oh, questa è una di quelle, cioè, c'è anche sulle università, ma lo facciamo, una cosa normale." L'abbiamo attivata, non è successo un cazzo di normale, spoiler. Ok, vediamo questo scambio da Pseudocelso e quello che poi verremo a conoscere, Aidur Leusum, che poi ci veniamo a parlare con questa persona alla fine dei tempi. Ci dice delle cose abbastanza controverse, nel senso che qualcuno prima ci ha detto il netto contrario. Ci dice che l'anima è qualcosa innata nell'essere umano ed è sempre esistita, non è stata una creazione, non è stato un marchingegno, c'è sempre stata. E che le centrali porteranno al collasso del mondo in quanto gli avatar sono la linfa vitale, l'energia di esso. E basta, cioè. Ah sì, no, cazzo, la cosa più importante. E diciamo ad Aidur della targhetta che c'è a Lumiera, che ha scritto suo padre per appunto suo figlio scomparso, e compare questo carinissimo becchino che per i più, diciamo, veterani lo riconoscono come Quibble, che ci lancia un cavolo addosso, prende sotto braccio Aidur e ti dice: "Bene, Siamo andiamo a collegati, cambiare il botto." Edward? Cosa? No, scusatemi. No. Fine. L'unica cosa che vi aggiungo è che Adone è in un altro punto, cioè fuori dal tempio, che sta guardando l'orizzonte. Però partiamo da voi. Sento più la musica. Sì. Perché è molto bassa di volume. No, no. Grazie. Chi cazzo è Gianluca Scogliaviglio? What? Stella, mi sa. Oh mio Dio! Grazie per la reazione. Scusami, Stella. Ci sono. Stella, ti voglio bene. Si è connessa su Discord, io ho mandato il link in chat. Alla visage, Abbiamo appena stupidissimo. ripreso. Lo tolgo però che non si sa mai dalla chat, perché poi magari entra qualcuno a caso. Devo ammetterli, quindi in realtà non possono entrare. Ah, ok. Vai. vi dicevo, riprendiamo esattamente dove vi abbiamo lasciati, cioè si chiude la pergamena e siete nel corridoio. E la pergamena si disattiva. Cazzo, è appena successo. Oh. Anyway, dove sono le mana unit? C'era Nibel nella cassa. Che lì a terra. Quindi... Vabbè, allora, il figlio del famoso tizio... Sì. Della Zenith... Sì. L'altra? Non l'Auster? Sì. Ok. E quindi? Cioè, nel senso... Questa persona ci ha detto una cosa, Pseudo Celso ce ne ha detta un'altra. E quindi... E niente, il cavolo? Vogliamo parlare del cavolo? Implica qualcosa il cavolo? Hold a sec, Master. Mif sa delle sì, manifestazioni. Adore ha mai raccontato a Mif degli eventi della centrale nel dettaglio? No, ma banalmente Mif che si leggeva le cose di demonologia. Non c'è scritto. Non c'è scritto, no. Ok. Secondo me ha raccontato di Kael e di come ha fatto, quindi oggettivamente Mif sa effettivamente di Quibble. Non so quanto nei dettagli. Ma cavolo, gli hai anche raccontato il dettaglio che quella volta nella centrale è apparso un tizio che ha sostituito una pistola con un cavolo? No. Esatto. Sì, forse io me la ricordo sta cosa effettivamente ora che me la fai... Mi ricordo una roba del genere. Se l'ha raccontata ve la potete ricordare, altrimenti basta. Ho il dubbio. Non so. Io la giocherei nel dubbio, cioè, dici, no. Infatti, no. Sicuramente riconoscete che Quibble poi del perché abbia un cavolo in mano. Cioè... Non è detto. Riconosci che è un becchino. Infatti. E basta. Cioè, quindi potrebbe essere veramente chiunque. Ma non ti so dire. Il cavolo non ne ho la minima idea. Magari un altro avatar, magari un amico, magari qualcuno che riesce ad andare alla fine dei tempi, però è interessante, quindi deve essere qualcosa di speciale. Fine. Andiamo a prendere Adone? È da un po' che è fuori. Sì, no, stava giocando con le pietruzze come sempre. Poi stavo pensando di accamparci qua per oggi e domani possiamo tranquillamente scendere. Però almeno questo è un posto sicuro e non rischiamo la pelle. Dietro Tolimi... Almeno un magister salutarci. Tolimi un dubbio dietro. Secondo te cosa poteva cercare la corona nera della Mucilus? La Mucilus era estremamente interessata a tutte le registrazioni anomale di questo posto. No, la Mucilus è la rettrice della centrale. Cioè, la centrale. Non è un magister. Non è un magister. C'è ragione. E allora no, poteva aver trovato qualcosa di interessante, I guess. Perché Adelfo si è infiltrato nella centrale per lavorarci proprio perché gli è stato chiesto dalla corona nera. No, perché Lieto non lo sapeva. Tua madre da dove viene? Zan lo sapeva. Tua madre da dove viene? Di nascita? Sì, di, dove sta di solito? A Scirocco. Okay. Ricordatemi dove è Scirocco. L'Italia. L'Italia del nord, te lo aggiungo io, perché... Che non è Oclica. No, è Germania quella. Ok, non è lo stesso regno. No. Mentre Apeira è tecnicamente nello stesso regno dell'Italia. Scirocco esatto. è... Esboson, Grecia e Italia. Ok, ok. Di cosa avrebbe avuto bisogno la Corona Nera in una centrale? Perché quella di Apeira nello specifico? Oppure andava a bere una centrale qualsiasi e ne hanno approfittato di Adelfo che era lì? Potrebbe aver approfittato di Adelfo che era lì. Potrebbe anche essere che hanno bisogno dell'avatar che è nella centrale. L'avatar è collegato a un dio, ogni dio fa qualcosa di particolare. E perché la Mucolos avrebbe dovuto attivamente fare dei danni alla popolazione impiantando una spora? Quello è perché probabilmente si speedavano le ricerche, così come facciamo alla Zenith. No, beh, Adelfo ci ha chiaramente detto che la Mucolos non voleva morire per le mani di qualcuno di umile origine, poi che fosse stata sfortunatamente la figlia di Tuani, del... non si può sapere. Possiamo parlare fuori? Solo... Questo posto mi sta mettendo ansia. No, perché è un quadrato, guarda che bello che è. Andiamo a prendere la Duana allora. Sì. Mi sembrava un po' strano prima. Sì. Sì, meglio non lasciarlo solo, quello potete lì. Potete continuare a parlare mentre esatto. Fate il corridoio. Diciamo... Stavo parlando a Nivel, credo. Quindi la spora era soltanto per metterlo sicuro, per far fuori il suo obiettivo, facendo più danni possibile, nella maniera più potenzialmente naturale possibile. Non penso sia... Cioè, se tu pensi che sia naturale una cosa del genere, avvelenare una persona pian piano di qualcosa che non è molto identificabile? La classifichi come cosa? No, è il termine sbagliato. Quello che volevo dire è che era... Non volevano farlo sembrare un omicidio. Insospettabile. Esatto. Ok. È comunque un metodo strano, perché se il danno si fosse esteso come si è esteso, più o poi qualcuno si sarebbe lamentato comunque della centrale. Cioè, comunque i nostri prodotti li vendavamo in giro, ci sono stati casi. Però è anche vero che non è mai scoppiata davvero una rivolta o qualcosa del genere. Il fatto questo che la essere strano. Magari hanno placato qualsiasi focolaio di rivolta prima che potesse partire. Esatto. E vi ricordo che possiedono anche la capacità di far dimenticare le cose alle persone. Esatto. Cioè, a proposito di questo, siete arrivati all'uscita del tempio. E l'ultima cosa, vai. Frase d'effetto, per uscire, però sono scordati di far dimenticare qualcosa alla persona sbagliata. Okay. All'uscita dietro fa una standing ovation, anche se è già in piedi. La DAB è stata potente. Esattamente dal 2020. All'uscita dal tempio vedete che il sole sta... non è ancora tramonto, però è sceso sotto il pescione, quindi rivedete il sole, mentre vi ricordo che fino a una certa ora tarda non si vede proprio. Quindi sapete che tra poco sarà crepuscolo, poi notte, eccetera, eccetera. Stare di notte in montagna non è una buona idea. E Adone è seduto, vi dà le spalle, e sta guardando appunto verso l'orizzonte, la seconda alba in un certo senso, e in silenzio, mentre tutti i membri del culto sono intorno che stanno... lavorando i campi, mettendo va a Discord. Discord. Andiamo. Pronti. Doppio Bianic. Mamma mia, doppio tutti. Goodbye. Goodbye. Benvenuti. Di cosa? Welcome back, fellow undeads. Addio, c'è il... We are so back. La fuga più veloce mai fatta. Manco i nazisti Qua non lo so, ragazzi. Una fuga veloce, pensateci voi. Non mi viene in mente. Andiamo avanti. Va per Mezia. Quello Mezia non è dei nostri. Magari devi ridargli il comando. Esatto, prova a ridargli il comando. No, non funziona, raga. Bastava disconnetterla e riconnetterla. È sempre quello il problema, staccare e attaccare. Sì, letteralmente. Ho messo la canzone sbagliata, però. Dicevo. Sirio. Birio. Senti i tuoi amici arrivare. Ok. Hey. Ciao, Birio. Non credo che il mito dica questo, sì. Sì. Credo. Completamente a caso. Nessun motivo. No, dai, Ica, dai. Scusa, vai. Adone rimane fermo, credo. Si è incantato questo e dietro gli passa tipo la mano davanti alla faccia. Quando guardi in faccia Adone, vedi che si gira a guardarti e ha tipo... ha questa espressione, ha gli occhi completamente stralunati in questo momento. Hai fatto un tiro di qualcosa? Non mi sembrava di averti lasciato niente. Controllo nelle tasche. Sì, no, è tutto qua. Cazzo hai trovato? Adone si alza subito e si guarda un attimo in giro. Bianic, voglio castare Future Glimpse e vedere cosa succede se rientro dentro. Vedi che sta arrivando uno dei membri del culto a dirvi che stanno per chiuderlo per la notte. Ok. Adone vuole andare, corre verso il culto, corre. Sbatti contro quest'uomo, cioè vi scontrate proprio fisicamente perché tu stai correndo e lui stava venendo nella vostra direzione. Oh, c'è qualche problema? No, credo di aver dimenticato una cosa. Torno subito. E Adone si alza e fa per rientrare. L'uomo ti prende per una manica. Stiamo chiudendo il tempio per la notte. Qualunque cosa sia, potrei prenderla domani. No, per favore, devo... sarà una cosa velocissima. Ci metterò solo un attimo. Adone, cos'è che hai dimenticato? Qualcosa di importante. Si vede che mi è caduto dalla borsa. I think he's bullshitting. Che espressione ha Adore in questo momento? È fuori dalle grazie di ogni dio che esistente. Non hai idea. Io voglio fare un roll. Datemi un attimo. Su qua? Voglio capire se mi stai dicendo una bugia o vero. Ipo, beh, Nibel non ha motivo. Sì, funziona, ok. Giusto. Nibel non ha motivo di dubitare in questo momento, quindi dice al monaco, non può lasciarlo passare per qualche minuto. Va bene. Ti accompagno. Sì, grazie. E Adone rientra. Dopo il primo androne siete nel corridoio quadrato che circonda il centro del tempio. E ho due domande per te, Bianic. Aspetta, ne ho qualcuno anch'io. Okay. Voi cosa fate? Cici resta fuori. Rimane fuori Nibel, rovista negli averi di Adelfo per vedere se c'è qualcos'altro che si è perso in caso. Okay. C'è qualche altro fratello in caso per chiedere se ci possono ospitare, ok? Biff va. Quindi fuori. Sì, perché dentro chiaramente non si può entrare. Lieto? Non so. E... cos'è il tramonto? Manca poco al tramonto. Manca poco al tramonto. E i monaci escono dal tempio e c'hanno le casupole lì intorno? O c'hanno tipo il refettorio? Come piano funziona? Di sopra. Piano di sopra? Ah, ok. C'è una scala, fatta anche questa di bronzo, che porta al piano di sopra. Al piano di sopra hanno delle cellette. E io vorrei parlare con... se c'è uno che ne sa più degli altri del loro meraviglioso macchinario che raccoglie le informazioni. Li facciamo in ordine. Vai. Primadone. Sei quasi mano nella mano con il tizio. Siete solo voi due nel corridoio. Oh. Oh. Adone vorrebbe raggiungere il portone. Dove è proprio lì davanti. Dopo l'androne principale c'è questo portone quadrato. Ok, si ferma davanti al portone e si gira verso il sacerdote e dice: cosa c'è qui dentro? La parte più importante del nostro culto, il sistema che rileva le anomalie. Adone lo guarda e dice: non... dici, non potete entrarci lì dentro? Solo in situazioni molto particolari. In genere i suoi effetti sono calcolabili dall'esterno. Capisco. E... ci sarebbe modo... mi si è bloccata la cam, vabbè. Potrei entrarci, possibilmente? L'accesso è vietato severamente agli intrusi. Capisco. D'accordo, grazie mille. Beh. E nel caso tu voglia entrare di straforo, serve una forza fisica notevole per danneggiare lo strato esterno, e poi c'è una protezione magica, e poi c'è una protezione anomala. Capisco. Adone si china a terra a guardare se trova la moneta che aveva perso e poi dice: no, si vede che non è qua. Sospira e dice: d'accordo, fa niente, grazie mille, e fa per uscire. Ti riaccompagna fuori e... nel mentre che cammino posso parlare nella mente e provare a chiamare Riegel? Sì. E lo chiamo, penso, Riegel? Dimmi. Perché riesco a parlare solo con te? Non c'è nessun altro qui. Non c'è anche... non c'è anche Adone? Sì, direi che tu sei qui. No, intendo... ci sono... ci sei solo tu? Vedi qualcun altro intorno? Sto parlando ancora a Riegel o al monaco? Sì, stai parlando con Riegel e Riegel ti risponde. Ok. Ah. D'accordo, grazie. Frappiamo sta cosa. Quella di Nibel è molto veloce. Tra gli averi di Adelfo, effettivamente Adelfo, ci sono dei bigliettini in più che sono, non voglio dire degli scontrini, ma delle lettere, delle cose che ha recuperato negli scambi commerciali che ha fatto per arrivare fin qua. Quindi, quanti erano i manapenni? Non ho capito. Quanti erano i manapenni? E di dove sono? Non abbiamo rollati. Sono una dozzina, adesso rollo. Sono 11. Sono okay. 11 manapenni e... 11 manaunit. Sono circa... sì, esatto. 4 di Apeira e gli altri sono 4 di Esboson e 3 sono di città varie. Cioè... Allora, aspetta, ricordami quelle di Apeira, quante erano? 4. 4 di Apeira, quindi 4 sono... Apeira, 4 Esboson e le e altre... 3 varie, tipo uno di Ilvu, uno di Lonera e uno di... Fai Singida, perché mi piace Singida. 4 di Esboson. E le altre? Lonera e Singida. Uno di Lonera? Uno di Singida e uno di Ilvu. ILW. Uno di Singida. Grande, scritto con la H. Ilvu e è uno... ILWU. ILWU. Ilvu, ok. Ok. Apeira, Esboson, Lonera, Singida e Ilvu. Lonera. Lonera, ok. Abbiamo finito. Scusa, era molto veloce sta cosa. Figurati. Facciamo lieto o mif. detto, mi ha detto. Sì, sì, hai detto. La persona non indaffarata più vicina è una giovane donna, 24-25 anni, identica a tutti gli altri membri del culto, quindi capelli corti, chiari, vestiti bianchi. È seduta per terra e sembra stia dipingendo il panorama. Ave. Buonasera. Come ti chiami? Noi non usiamo i nomi qui. Ah, è vero, è vero, è vero. Ciao numero 2. È numero 2 perché è il secondo con cui parlo, perché c'è una cosa di particolare. Sai dirmi dove posso trovare lo strumento con cui registrate delle anomalie? Lo strumento non funziona come credi. Emette delle onde il nostro tempio e i monaci più esperti sono in grado di verificare le differenze tra le onde. Quando le differenze sono particolarmente importanti si è formata un'anomalia e inviamo alcuni uomini a controllare di cosa si tratta. Ok, è uno strumento magico, meccanico? In parte è meccanico e in parte non saprei dire se magico è il termine giusto. È un'anomalia anche l'osservatorio? Esatto. Non è un po' controproducente usare un'anomalia per cercare le anomalie? Pensi sia controproducente usare la magia per combattere i maghi? No, infatti li prendevo a pugni una volta, però... Vabbè. E comunque noi non le combattiamo, cerchiamo di capirle. Vero, vero. Non avete mai ucciso nessuno di collegato alle cose. Da qualche secolo direi di no. Quindi non posso proprio vederlo questo macchinario. Per la sicurezza di tutti l'accesso è vietato. E comunque anche se c'entrassi, le anomalie non sono qualcosa con cui gli umani possono interagire. Dicevano lo stesso della buccia di arancia. E vabbè. L'arancia di Nea Nea? Probabile. Era verde. Si spandeva da tutte le parti. Esatto. Quella. Sì, sì. Cosa... Che dati avete raccolto sull'arancia? Quelli che bastano. È meno pericolosa di altre cose. Ho ancora qualche minuto prima di andare nelle stanze per riposare, quindi vorrei terminare il mio dipinto. Lo lascio finire. Si è capito che non si cava un ragno dal buco con questi. Rimane Mif. Che cosa volevi fare? Voleva chiedere se ci potevano ospitare per questa sera, oppure insomma darci un posto così. Cerchi un'altra persona diversa da quella che ha trovato lieto. C'è qualcuno che è più in alto in grado? Sono tutti uguali? Non me l'hanno detto, non c'è motivo di credere che ci siano dei gradi. Ok, a posto. Allora ne prende uno a caso. No, non dovete nemmeno chiedere. Non dovete nemmeno chiedere, abbiamo già predisposto tutto. Oh, grazie mille. Veramente, no, grazie davvero. Allora se lo può... in cellette separate, ognuno di voi avrà la sua stanza. Era quello che volevate, no? Fantastico, sì, fantastico. Voi? I bagni dov'è che sono? Siamo una comunità rurale e funzioniamo come molti secoli fa. I campi sono il bagno. Perfetto. Grazie mille, vado a riferirlo ai miei compagni, grazie ancora. Vi ricongiungete tutti. Miff esordisce con abbiamo, in realtà ci hanno già preparato delle stanze e se non vi dispiace io mi avvio di già, quindi insomma a domattina. A domani. Miff prende, Miff passa da te e Nibel fa, posso lo scettro? Se mi dici i motivi per i quali lo vuoi. Voglio testare altre magie, non faccio del male. Non ha proprio senso farlo. È una buona idea farlo in questo luogo, però. Tieniti lo scettro, era più per uno studio. Tu, Adone, continui con i sigilli o vuoi che continui io? Adone stava guardando fisso sul per terra, ti guarda sempre con questi occhi stralunati e fa... Se tu hai soltanto bisogno di riposare, vuoi che continui io? No, posso continuare io. E vedi che guarda per terra, non sta proprio guardando il tuo sguardo. Oh, sì, ce la faccio. Perfetto, allora... l'altro libro invece ce l'avevo io, giusto? Quello di cosa Morgana Laconia, giusto? Ce l'ho io, se volete leggerlo. Sì, sì, volevo comunque fare qualcosa stasera, quindi se non era incentrato sullo scettro, era incentrato su qualcos'altro, me lo puoi dare per cortesia? Sei meno pericoloso, ti do il libro e ti non do dovrebbe anche, essere. La pergamena raccolta magie. Grazie. Tanto a me non serve. Buonanotte. Buonanotte. Miff esce di scena. Voi cosa volete fare? Ho solo una domanda, Bianice. Com'è che sono gli alloggi per dormire? Non ve li hanno ancora fatti vedere. Ci sono delle scalinate fatte di metallo, quindi immaginati tipo scala antincendio, che vanno sopra il tempio. E il tempio è un cubo di marmo. Sì. Sopra questo cubo di marmo ci sono delle... cioè prima un basso rilievo sembra fatto di ingranaggi e robe strane meccaniche, e sopra quello ci sono gli alloggi che sono esternamente di metallo e l'interno non si vede, cioè dovete entrarci. E io faccio così, schiocco le dita davanti alla faccia di Adone per prendere attenzione. Adone si dice sì? Tutto a posto? Sì. Ho messo un sacco a rispondere. Ho bisogno di parlare. Lo vedi spaventato. Hai bisogno di parlare. È un luogo sicuro questo, comunque. Donè si guarda un attimo attorno e fa... Forse. Sì. Non riesco ad immaginare un luogo più sicuro di delle persone che si occupano di registrare gli eventi nella storia. Adone ci pensa e dice: sì, però adesso non possiamo più entrare nel tempio. Non possiamo. Fino a domani almeno. Domani possiamo entrare nel tempio? Abbiamo il tempo per farlo? Sta parlando a te, proprio Nibel. Sì. Decidiamo noi quando andarcene, quindi... Se avete bisogno di ritornarci dentro, non vedo perché no. Oh, ok, allora domani mattina, sì. Possiamo... Io ho bisogno di fare qualche altro controllo, ecco, tutto qua. Il mio obiettivo l'ho trovato, quindi non ho più fretta. E il prossimo non scappa. Uno dei monaci, quello che chiudeva la porta, l'ha chiusa con un meccanismo. E il meccanismo non ha chiavi o altri sistemi, semplicemente è a tempo. Quindi lascia la porta lì e va al piano di sopra anche lui a ritirarsi nella celletta. Okay. Ora siete solo voi, cioè gli altri monaci sono tutti andati via. Ok. Quindi chi siamo? Io, Nibel? Lieto, penso. Ok. Vuoi camminare con me, Nibel? Un pochino? Sì, volentieri. Okay. Ho bisogno di prendere un po' d'aria anch'io. Intanto vedi che Adone si scioglie il codino e vedi che si passa la mano fra i capelli. E inizia a camminare. Una volta guardo la mia boccetta con il liquore, vedo se c'è ancora dentro. Poco. Allora lo apro, annuso un po'. C'è un po' la tentazione, però lo passo ad Adone. Adone guarda il liquore e dice: no, grazie. Non mi pare. No, preferisco di no. Va bene, me lo chiudo e lo rimetto nella giacca. Colta Nibel, tu ti fidi di me? Sì, diciamo di sì. Voglio fidarmi di te. Ho bisogno che mi prometti una cosa. Ok, non prometto che posso prometterti, però prima ascolto. Cerca di evitare. Vedi che sta cercando le parole un po' indecise, fa. Non cercare di uccidermi. Ma se tu, Mif, Lieto, gli altri, decideste di arrivare a tanto, fai in modo di portare a termine il lavoro. D'accordo? Credo di aver ben capito. Vuoi che ti uccida o vuoi che non ti uccida? Non lasciare il lavoro a metà. Non. Io preferirei che non lo facessi. E vorrei che Mif evitasse di farlo, no? Anche se è molto incline Mif. Il senso è, se volete farlo, usate tutto quello che avete, credo. E basta. Non è il mio intento, a meno che non dovessi diventare una minaccia, o comunque qualsiasi cosa tu ti stia portando dietro diventerà una minaccia. Non... Hai mai pensato di non essere reale? No, non credo che di aver mai avuto un pensiero del genere. Non vedi che Adone sta cercando le parole, ma lo vedi in difficoltà. Se tu capissi di non essere reale, cosa faresti secondo te? Quale sarebbe il modo di approcciare la cosa? Cosa vuol dire essere reale, secondo te? Non lo so. È quello che mi sto chiedendo in questo momento. Lo vedi il cielo? Sì. La senti l'aria nei polmoni? Sì. La senti la mia voce quando ti parlo? Sì. La senti questa pacca sulla schiena? Sì, l'ho sentita. Hai bisogno di altro per definirti reale? Credo di no. Di cosa hai paura, Dona? Vedi che si guarda un attimo in giro e fa... Io non... Non so... Vedi che sta considerando la cosa e poi dice... Ma se io non fossi Adone? Nel senso che... In quale e senso? Dopo questo vedi che però... Guarda un attimo il tempio e dice... ok, forse è meglio tornare al tempio. E si gira e se ne va, e va dritto al tempio. Vedi che ogni tanto si guarda attorno. Si avvicina a Adone da dietro e dice: tu vuoi essere Adone? Ti gira e dice: non posso esserlo? No, prendo la mia pipa, l'accendo. Sbuffo, se ti dicessi che io non sono Nibel? Vedi che Adone fa una faccia spaventata a questo punto. Dice, non saprei come reagire, credo. Se io ti dicessi che sono Nibel? Direi che lo sei. Quale delle due ha più importanza secondo te come affermazione? La seconda, credo. Ok. Su che basi? Sulla questione di fiducia? E questo è il problema. Di cosa mi posso fidare? Delle mie percezioni, del mio vissuto? O dei miei ricordi? O di altre cose che sento? Posso fidarmi dei miei sogni? Devo ascoltare quello che mi dice la gente? E lo vedi comunque in difficoltà in questo momento. Ti sembra provato. Tu pensi che là fuori ci sia un altro Adone, un Adone vero? È questo che intendi? Non credo sia fuori, ma più dentro. Quindi tu come persona stai usando l'identità di qualcun altro? Forse. Per te è un problema? Forse no. Non posso trovare la soluzione al tuo problema, Adone. Dovrai pensarci da solo. Però qualsiasi sia la tua identità, non la scelgono gli altri. Sì, credo di aver capito. Grazie, Nibel. Figurati. Perfetto. Direi che torniamo. Lieto e Cici cosa hanno fatto nel frattempo? Cici, se tu non vuoi fare nulla, se ne va in camera. Se tu vuoi fare qualcosa, è lì con te. No, Lieto è contento di andare a letto a sto punto, direi. Perfetto. E vi sono state assegnate delle cellette, su ognuna delle cellette è stato scritto il vostro nome, non sarebbe corretto, però ci sono 5 cellette che sono diverse Simboli. Dalle altre. Esatto, non hanno nulla sopra. Sono tutte vicine? Oppure... Sono tutte vicine. Ok. E le cellette sono estremamente spartane e quasi claustrofobiche. Sono tipo un metro di larghezza ognuna e profondi 2,5 metri circa. Non ci sta. Nibel ci sta stretto, sì. Sono, come dire, i rinforzi sono di metallo e il pavimento è di legno. E i muri hanno delle assi di metallo che coprono quasi interamente. Hanno delle assi di legno che coprono quasi interamente il metallo e c'è un pagliericcio più che un letto. è, come dicevo, è molto spartano. C'è lo spazio per starci e per poggiare i propri averi. Guardo la celletta. Sembra di essere tornato in miniera. Vi chiedo un minuto, mi porto su Mif. Potete fare quello che volete, cioè siete nel pre notte, se volete chiacchierare tra di voi in game potete anche farlo per me. Oh no. Entro con gli occhi stralunati. Mi è crashato di sopra, non capisco perché. Ma no, dai. Perché i canali sono indipendenti in realtà. Due coglioni. Noi ci mutiamo, ci full mutiamo. Chiamo direttamente Sara. No, beh, ci mutiamo se vuoi. No, non ci credo. Ci voglio. Neanche la chiamata privata funziona. No, ma perché Discord... No, allora, raga, Discord è ancora down. Per qualche motivo si vede che eravamo già connessi nel canale. Sì, probabilmente. Abbiamo beccato, tipo, abbiamo preso con la... è un'anomalia temporale. Sì, esatto. So che è strano, ma vi chiedo di mutarvi tutti. Mutiamo. Guarderò TikTok nel mentre. Allora, io metto la cam, così tanto vedete quando torno. Vado a prendermi da bere nel frattempo, ne approfitto. Sì, full mutate tutti tranne Stella. E Ica. Okay, Ica, bravo Ica, perfetto, a posto. Yeah. Esatto. È il crepuscolo, come avrai intuito, e quindi è il tuo grande momento. Si sentono i muri attraverso le cellette, perché sennò Mif va ad infigarsi nei boschi. Se parli piano non si sente, i muri sono abbastanza... Se parli forte si sente... No, Mif parla pacato, cioè non è che urla o cose del genere. Cosa fai? Mif, sai quella situazione a disagio? Dove non sai che cazzo fare? Tipo, è lì che si gira i pollici, no? E fa... Ma devo aspettare un'altra pergamena, mi devo toccare l'orecchio, Mif che si tocca l'orecchio, no, per un istante, poi... Ah, eccoti! E appena molli l'orecchio non senti più niente. Rifà di nuovo. Ok, per favore, piantala. Ciao Mif, sono Shibira. Ci siamo sentite oggi. Piacere di conoscerti. Come hai fatto a raggiungermi? Il Magister ha lasciato una pergamena nel tempio perché sapeva che sareste arrivati nel tempio. Quale dei tanti Magister? Forse non dovevo dirlo. Vabbè, non quello che avete ucciso, eh? No, lui non era lui. Interessante. Era la Magister. Magister Isti. Quella fanatica di questo tempio. Sì, ce l'hanno detto i cultisti. Sì. I monaci. Hai Brook lì a fianco? Sì. Come sta? Ha visto giorni migliori. Immagino. Ha detto che a breve verrà a trovarti. Dove? Beh, sei ad Esboson, no? Come fa a venire ad Esboson? Con una nave. Ci metterà un sacco di tempo. Sì. Io conto già di uscire da questo posto domani o dopodomani. Non credo che lo farai. Sto facendo del mio meglio. Sto facendo del mio meglio. Fammi a sentire. Ho da darti degli ordini, perché mi pare di capire che tu voglia prendere il posto di Brook, giusto? Il contratto è quello. Sì. Non mi avevi detto che ha firmato? Ah, non era un contratto. Ok, ho capito. Sì, certo. contratti. Hai visto mio cugino per caso? Chi è il tuo cugino? Si chiama Naya. L'hanno ucciso, vero? Shibira sente silenzio per un attimo e fa: sì, l'hanno ammazzato davanti all'obelisco di Esposo. Ok, allora non è più un problema. Bene. L'avete seppellito? Sì, perché è rilevante questa cosa? Ah, è comunque un membro della famiglia, dovrò portare le condoglianze alla sua famiglia e dovranno sapere che fine ha fatto. Anche come ha fatto quella fine? Come? Anche come ha fatto quella fine? O semplicemente che credo sarebbe meglio non entrare nei dettagli. Farò sapere che... molto perspicace. Farò sapere che chi l'ha ucciso è stato adeguatamente punito. Contenta? Sì, dai. Bene. Ora, parliamo di affari. Visto che dovrai assumere una nuova professione, un ruolo molto importante per la tua vita, queste sono le prime cose che devi fare. Prendilo un po' come il tuo tirocinio. Figata. Allora. Quindi mia madre ha già fallito la sua promessa? Avevi dei dubbi? Pensavo ci mettesse un pochino più di tempo. Voglio una conferma, non da te. Quindi davvero è già scattata la situazione. E chi è che è arrivato a casa mia, quindi? Come? Avete mandato qualcuno, immagino. Non so di cosa tu stia parlando. Perfetto, no. Fa come se non avessi mai detto. Bene, dicevo. Noi abbiamo un veggente. È il padre di un altro mio cugino, non Naya. Si chiama Rodvold, non so, non credo tu l'abbia mai incontrato. Arzesum. Praticamente ha fatto questa fantastica previsione, molto dettagliata, del fatto che ti verrà consegnato un artefatto mentre sarai ad Esboson. È chiaro? Che tipo di artefatto? Credi nel destino? Perché se non credi nel destino, questo discorso sarà abbastanza strano. Una serie di fattori mi hanno fatto capire che non ha importanza se ci credo o meno. Succederà lo stesso. Vai avanti. Non ho capito un cazzo, vero? Ah, non gliel'hai spiegato? Dovevi spiegarglielo. Non glielo spiegherò io. Cos'è successo? Non so. Sirio, mutati. Sirio, mutati. Ah, visto che non ho tempo di spiegarti le cose, sta per finire il tempo che ho a disposizione, poi devo chiamare gli altri. Ecco cosa devi fare: incontrare una persona che ti porterà un artefatto. Questo artefatto è molto importante, ma è inutile se non lo attivi. Chiaro? Ok. Devi che attivarlo. Tipo di persona devo incontrare? Un uomo. Più informazioni? Lo conosci. Lo conosco. Senti, okay. Le previsioni del futuro non sono dettagliate, ok? Cioè, è un uomo che conosci. Ok. Se sapessi di più lo starei facendo io, invece siamo qua a parlare con te. Dicevo. Okay. L'artefatto va attivato, dicevo, e per attivarlo dovrai... utilizzare la cosa che c'è dentro il tempio. Il tempio dove sei adesso. Il coso delle anomalie. Sì. Non posso entrarci. Potrai farlo quando sarà il momento. Abbiamo già concordato con la Magister che loro ti permetteranno di entrare in via del tutto eccezionale per attivare l'artefatto. Ok, come lo spiego ai miei compagni che ho qui? Avete bisogno di altre centrali aperte? C'è un avatar del tempo e un dio che deve ascendere. Una cosa alla volta, prima l'artefatto. È chiaro cosa devi fare? Devi prendere l'artefatto, sì. Portarlo qua. Devo attivarlo dentro. Perfetto. Sì. Non credo che il tizio verrà lì in cima a portartelo, dovrai cercarlo. Non so se nella città di Esboson. Devo scendere? No. Devi scendere. Oh mio Dio. Okay. Mi spiace, il tizio non verrà lì. Quando l'avrai recuperato dovrai tornare là. Quando sarai tornata là attiverai l'artefatto. Quando avrai attivato l'artefatto andrai da Senic e lo ucciderai in un colpo. Molto semplice, molto semplice. Devi rimanere su. Cioè, vedi, un high pitch, un low pitch, un silenzio. Mi stai chiedendo di ammazzare quel pesce gigante? basterà un colpo, fidati, ma abbiamo pochi minuti rimasti prima che questa cosa esploda, quindi l'altra cosa che devi fare è catturare tutti gli avatar e tutti i santi. Qual è la differenza con i santi? I santi non li hai ancora incontrati, sono le nuove divinità. No, hai incontrato... Ah già, hai incontrato Maria. Ok. Bene, è importante. Non era che... morta? Non è morta. È un santo adesso, esatto. Però è un santo al servizio dell'impero. Noi facciamo parte dell'impero, nel caso ti fossi persa questo pezzetto. Quindi, sì, grazie, benvenuta nell'impero. Dicevo, è l'ultimo minuto che ho a disposizione. Cosa ti devo dire di importante? Nel tuo party c'è un santo e un dio. Dovevi fare in modo che entrambi smettano di essere pericolosi. Se li devi uccidere, uccidili. Se non li puoi uccidere, sigillali. Ok, ciao. Non so come sigillarli. Fine della chiamata. Ok. Basing. Allora, qualcuno deve scrivere a Sirio, perché io devo sto... Che succede? Niente, era per avvisarti che ci siamo. Fallo anche con Ica, devo andare in bagno. Cazzo. Hello. Ciao Ica. Stiamo facendo 5 minuti pausa, 5 minuti interruzione, 2 minuti interruzione. È una sessione un po' particolare. Siete tutti nelle cellette e non vi siete nemmeno salutati prima di andare a letto, o meglio, a gruppi non vi siete salutati. Cici e Lieto ci sono andati senza salutare gli altri, Mif c'era andata per prima. Va bene, Stella. Libero fa buonanotte generico. Notte. Ti guardo così da bambola posseduta e va nel suo cuotto. Tu non dormi. Ora dormo. Infatti io non dormo. Ma sono chiuse a chiave le cellette. Le puoi chiudere non a chiave, cioè hanno un meccanismo, come si dice, un lock. Ok. Quando sono andati tutti a dormire ed è passato un pochino, Adon esce. Clac clac. Sei fuori. C'è una specie, non dico di terrazza, però c'è una scalinata, quella di metallo che avete fatto, e lì hai una visione otherworldly del mondo di notte, con Senic davanti. Madonna, che... Wow, sì. Che bello! Veramente strano. Eccoci. Adone credo si metta sul vicino al bordo praticamente del cubo, insomma, dove finiscono, sì. E si siede con le gambe a sì. Penzoloni. Sì, sì, sì. Ho uno specchio io, possiedo uno specchio. Mi sa di no, e loro non ne hanno. Infatti loro... Ho dell'acqua in cui posso riflettermi. Ti hanno fatto vedere che hanno un... come si dice, una cisterna. Ok. Devi scegliere. Adone comunque rimane un attimo lì a osservare il vuoto e prova a chiamare di nuovo Riegel. Dice, Riegel? Dimmi. Tu eri presente prima quando ho parlato io? Con Nibel? No, quando ero da solo. Stavo parlando da solo. Non so di cosa stai parlando. Quando ero in quel posto dove ero seduto prima, quando ero lì gli altri erano ancora fuori, prima che mi raggiungessero gli altri. Cosa stai parlando? Non aiuti. Pausa, ti fermo subito. Vai, vai. Lieto. Yes, dimmi. Anche tu non hai nessun bisogno di dormire. Io dormo uguale. Nel senso che non posso dormire. Ok, non... mi fa molto piacere. Torno da te alla fine di questo giro. Ok. Mif, ti sei addormentata? O hai da fare delle robe con i sigilli? fare delle robe con la cosa di Morgana Aracoria. Ok, perfetto. Quindi stai facendo quello. Nibel, sei addormentato? Non subito. Nibel pensa un po' a varie robe. Per addormentarsi ci mette una quarantina di minuti più o meno. Ok. Allora, ritorno subito ad Adone. Forse senti dei rumori fuori dalla tua stanza, Nibel, però... Cioè, vedi tu se è una roba che ti interessa abbastanza ad alzarti e controllare oppure no? Li sento arrivare dalla cella di Adone, perché comunque sì. Mi aveva preoccupato. Esatto. Magari non esco subito, perché prima rimugino tra me e me di varie robe. E poi quando non... continuo a pensare, tipo, cioè, sto pensando ai miei pensieri, però c'è sempre quella cosa di tipo, se Adone sta facendo una cazzata, tipo, se sta facendo una cazzata, e poi dico, vabbè, non riesco a dormire, tanto vale che esco e vado fuori. Quindi dopo un po' che hai fatto queste rimuginations, arriva alle tue spalle un grande omone, caro Adone. Adone, no, non credo si accorga di te, e Adone fa... Non mi hai sentito prima parlare da solo, che ho nominato Silas? Non so di cosa tu stia parlando. È solo un'altra voce nella mia testa. E a questo punto Adone si gira, fa per alzarsi e vede Nibel e prende paura. Quasi non cade, credo. Accendo il fiammifero, prendo la pipa, accendo il... l'oppio nella pipa. Tutto a posto? Sì, tu invece? Perché non dormi? Faccio un po' fatica, Odi. Da che pensare. Adone si alza. E... dice... non... vuoi pensare da solo? Non lo so, sono abituato a farlo da solo. Trovo un po' difficile mettere a parole quello che penso. Prova a farmi delle domande. Cosa è successo con Adelfo? Non mi avete più raccontato nulla. Considerando tutto, non credo tu l'abbia ucciso. No, è rimasto in vita. Mi ha detto cosa è successo nella sua vita. Mi ha detto che aveva dei debiti con la Corona Nera ed è il motivo per il quale è entrato a lavorare alla centrale di Apeira. Era per... Adone era presente quando è stato detto tutto questo. Ok. Ma non... non eri cioè, c'eri anche tu quando hanno parlato agli altri. Sì, hai ragione. Comunque, la roba della spora, no? Il fatto che ha fatto quella roba per la mucca, lo sarà manipolato, eccetera, eccetera. Il problema è che tipo da quando ho iniziato questo viaggio o da quello che mi è successo, da quando mi sono successe tutte le cose, mi sono sempre ripromesso che nella mia vita non avrei mai ucciso nessuno, ad eccezione di Adelfo. Sarebbe stata la prima e unica persona a cui avrei tolto la vita. E dopo che ho scoperto quello che è successo, ho dovuto rivalutare un attimo. E semplicemente è cambiato il mio obiettivo. E qual è adesso il tuo obiettivo? Sicuramente più difficile, però non ho niente da perdere. Vuoi uccidere la Mucca Rossa? uccidere, farle pagare, non lo so, qualsiasi cosa possa servire. Credo... Non lo so cosa credere, Nibel. Non saprei se è una cosa... Sentite dei passi provenire da sotto di voi, dalla scalinata di sotto, e sale le scale un uomo, nell'oscurità non lo vedete chiaramente, vedete un'ombra, alla voce è leggermente familiare, e l'uomo dice: posso darti un consiglio? Da vecchio amico? Sta fumando anche lui, vedete una luce. Non volevo origliare, ero uscito prima di voi. Questa roba non è accettata dal culto, ma dopo di oggi ne avevo bisogno. Ti conviene portarti una giovane donna di umili origini. Cici, dice Adone. Lei o qualcun altro, non mi importa. La profezia si avvererà se questo succede. Guardo Nibel. Quindi a lei non importa che sia una persona specifica, a lei importa che ci sia una persona che rientri in quei requisiti. Da quando sto qua ho avuto modo di vedere come agisce il fato. Ha fatto una grandissima troia. E si diverte a prendere in giro la gente, per cui spesso è esattamente quello che va bene. Basta che rispetti le stronzate che ha scritto. Sono veramente contento che Klopp abbia fatto la fine che ha fatto. Adelfo? Sì. No, sì, mi l'ho chiamato. E gli dico... Voi, i vostri libri parlano anche delle anomalie future? Parlano anche del futuro? Solo quando gli strumenti le rilevano. È molto strano che si rilevi qualcosa di futuro, in genere è qualcosa di passato che si ripercuote o un'onda che non ha finito di vibrare. Sono, nonostante sia stato anni qua, non sono ancora abbastanza bravo da capire i dettagli di questa cosa. Capito. Scusate, credo che andrò a fare una passeggiata per schiarirmi le idee. Nonostante la protezione, questo luogo è infestato dalle bestie, fai attenzione. Sì, rimarrò qua vicino al tempio. E allora lo sigilliamo. E butta la sigaretta e la canna fondamentalmente e rientra. Mi giro verso Nibel e faccio... Ti consiglio di provare a dormire. Tu hai bisogno di riposare. Al contrario mio. Pensi che io debba portare Cici o una qualsiasi altra ragazza al cospetto della Mucolos per far avverare questa profezia? Io credo che... se qualcosa deve accadere... accadrà. Porta Cici. E questo è il problema. Se dovesse accadere qualcosa, non accadrà per mano mia. Adone dice: non so se quello basterà. Ho già perso un obiettivo con Adelfo. E questa è la cosa che mi rode, che mi brucia il cervello in questo momento. Se dovessi perdere anche questo obiettivo, se dovessi perdere la mia vendetta contro lei, cosa mi rimarrebbe? Quanto è importante la tua vendetta? Pensi che avresti sprecato tutti questi anni? Riusciresti ad andare avanti? O rimarresti fermo nell'inazione. Sai che Glauco può curare la mia condizione, vero? Beh, perché non l'hai già curata? La scusa era che il potere di Maeklon mi serve. La verità è che una volta che ho finito di fare tutto quello che dovevo fare, ho deciso di semplicemente abbandonarmi a me stesso e raggiungere la mia famiglia. Non... Adone ci penso un attimo e dice... Non credo di essere la persona giusta a cui chiedere in questo momento, però sarei dispiaciuto nel vedere la tua morte, Nimble. Prendo la pipa, la faccio cadere alla cenere e ci soffio dentro, la ritiro. Dispiaciuto o meno, quando arriverà il momento avrei qualcosa in più da mangiare. Non... magra consolazione, credo. Non... Magari sentire la mia voce nella tua testa come l'amico tuo, che ne sai. Non so più cosa pensare, se sperare nel trovare una voce familiare o se io sono solo una delle tante voci qui dentro. Se dovesse succedere, farò il possibile per tormentarti giorno e notte. Ok. Buonanotte, Adone. Nibe, Adone viene da te, ti prende un attimo per la manica e dice: Nibel. Dimmi. Cerca di vivere. Tu qua. Finché servirà. D'accordo. E lo lascio andare. Abbiamo glissato su questa cosa, ma ovviamente vi hanno preparato da mangiare. Cioè, avevate tutti una ciotola di verdure e frutta e cose che si possono reperire in questo luogo naturali, quindi per molti di voi è molto strano, tipo per Cici è stranissimo. Sì, probabilmente Nibel l'ha mangiato prima di sì. Di quei 40 minuti di dormiveglio. Sì, ci sta, esattamente. Siete esausti sia perché per voi questa giornata è durata 36 ore e sia perché effettivamente comincia a essere tardi. Vi ricordo che voi vi siete svegliati tipo alle 6 del mattino per preparare la trappola per il Magister Magi, e da lì in poi la situazione è stata strana. Tipo c'è un loop temporale. Sì. E quindi anche Adone sente sonno. Infatti. Che è strano, cioè più... Sì, devo... Forse più stanchezza fisica che... Mm-hmm. Cioè, fa stanchezza mentale che fisica, ho avvertito. Adone guarda un attimo le scale, ha un momento di faianza in cui prende il corrimano, lo stringe, fa quasi per buttarsi, poi torna indietro, poi lo fa di nuovo e poi dice... Torna indietro e si passa una mano sul viso. E a questo punto va a prendersi qualcosa da mangiare e va a mangiare nel suo cubicolo e mediterà. La sessione la finiamo con questa cosa da bastardi. Che però mi piace tanto, quindi... Mi cacco le braghe. Quante volte l'abbiamo fatta e quante volte è divertente. È stato divertente. Secondo. Chi vuole essere il primo? Si rolla. questi roll. Ma diamoci dei numeri. Faccio che io. Adone da 1 a 5. Mif da 6 a 10. Nibel da 11 a 16. Da 11 a 15. Da 16 in su, lieto. Perché non 24? Adone, perché ho un di 20 a portare di mano. Okay. Partiamo subito da Adone, partiamo col botto. Oh, mamma mia. Stavi meditando. E improvvisamente ti addormenti. Ed è una cosa che ormai ti è familiare, perché Mif l'ha fatto così tante volte che, anche se dovrebbe essere alieno per te, ormai ti è familiare. Per cui il tuo primo dubbio è: cazzo, Mif mi ha addormentato di nuovo. Però non c'è motivo per questa cosa. E il sogno che stai facendo non è uno dei sogni che crea Mif e non è un tuo ricordo. Il sogno che stai facendo è come se il tuo corpo fosse uscito, come se la tua anima fosse uscita dal tuo corpo e riuscissi a vedere attraverso gli oggetti e vedessi che il cubo di marmo che costituisce il tempio è trasparente e all'interno c'è un altro cubo collegato ad esso come un ipercubo, un tesseratto, e all'interno di questo cubo, di questo secondo cubo, c'è un'entità che sembra una stella marina, che ha una bocca deforme, grande e sorridente, e sta sbattendo con tutti i suoi tentacoli contro le pareti del muro e sta urlando, e solo tu lo riesci a sentire nonostante abbia la bocca chiusa. Torna qui, siamo così vicini, non mi puoi tradire ora, torna qui. Sì, dimmi cosa vuoi fare. Adone va dalla stella. C'è un muro, appunto, la roba intorno al tempio, che è trasparente ma è fisico, durissimo, non puoi attraversarlo. Posso castare il cuore di Dio? Tendi il braccio, spari un fulmine e tutto il fulmine si propaga intorno alla superficie del cubo, pitturandolo di celeste tutto intorno. Non ha fatto nessun effetto. No. Adone vuole scaricare tutte le icore di Dio che ha. Con un braccio e con l'altro inizia a sparare con entrambe e finisce l'energia molto prima di aver scalfito la superficie di questa cosa, mentre la creatura all'interno continua a gridare: eravamo così vicini, avremmo potuto avere tutto quello che volevamo, il mondo perfetto che sognavamo. E invece te ne stai andando! Perché te ne stai andando? Devi tornare! Il tuo sogno finisce così. No. Andiamo in ordine, dai. Mif. È un sogno che hai già fatto. Sei sopra un treno. Devi scendere alla tua fermata. Sei nel cielo terso infinito, c'è una panchina, sulla panchina c'è un uomo sorridente con le braccia incrociate, le gambe incrociate, e non riesce a vedere nient'altro del suo corpo se non il suo grande sorriso. Vi è formai in sala, si siede a fianco e fa: cosa mi racconti di nuovo oggi? Vedo che sei venuta a trovarmi. O sei tu che mi perseguiti? In ogni caso siamo qua. Hai intenzione di fare qualcosa di stupido? Quello che mi hanno detto di fare dovrebbe essere stupido? L'uomo salta in piedi. Ti mette una mano sulla spalla. E come il resto del corpo, la sua mano è una cosa unica. Cioè non riesce a vedere le dita, non riesce a vedere niente. Quindi è più un tentacolo forse sulla tua spalla. No, non hai capito. Ti è stata data una missione e tu devi farla. La farò, non so come, ma la farò. Ti dà una pacca sulla spalla. Brava. Ricordati sempre che il tuo posto nel mondo è questo. Mi letteralmente, cioè, rotti agli occhi e fa: me lo troverò il mio posto nel mondo. L'hai già trovato. Non è qui. Sei esattamente dove dovevi essere. Io non lo penso. L'uomo si siede davanti a te, come se si fosse manifestata una seconda panchina, e fra voi due c'è un tavolo, e sul tavolo c'è una scacchiera, e la parte inferiore dell'uomo si deforma, diventando la parte inferiore della faccia di Brooke. Ok, mi fa adesso una reazione viscerale. Vuoi fare una partita a scacchi? So che perderò. Esatto. E fa la prima mossa. Va col flu. Il tuo sogno continua così. Cioè con voi che giocate a scacchi per tutta la notte. In ordine ho Nibel. Il tuo sogno riprende il sogno che avevi fatto ormai qualche settimana fa, forse. Sei sul tetto della tua vecchia casa e a fianco a te c'è un signore anziano. State entrambi guardando l'orizzonte. Sembra che stiano costruendo la centrale, più o meno sono quegli anni lì. Ok. Hai trovato quello che cercavi? Diciamo di sì. La ricerca non è finita, però. A breve entrambi avremo la nostra vendetta. Che tipo di vendetta cerchi tu? La stessa che cerchi tu, credo. Per questo ci hanno collegato. Sulla stessa persona? Su mia sorella. La... parli della Mucelos? Alexandra? Sì. A quanto pare qualunque cosa mi separi dal mondo dei vivi si è rotto e posso parlare liberamente. Dimmi di più. Io ero un grande veggente, forse il più grande veggente di tutto Scirocco, forse del mondo. Le mie abilità erano affinate, rare e molto ricercate. Per il compleanno di mia sorella feci lo stupidissimo errore di regalarle una previsione. Mia sorella gemella, tra l'altro. E vidi che sarebbe stata una giovane donna a portarle via tutto. Indovina un po' cosa fece? Sì. Uccise me e poi tutte le giovani donne che potevano minacciarla. Ma sono contento. Di cosa? Di quello che ha fatto? Di quello che farai tu. Sarà difficile, lo sai. Conosci tua sorella meglio di me. Farcela. So anche che probabilmente non ha punti deboli e che la mia previsione sarà l'unico modo per sconfiggerla. Questa cosa mi rattrista parecchio. Avresti preferito farla fuori con le tue mani? Decisamente, però ho capito che in questo viaggio mi sono sopravvalutato molte volte. Prima di partire ero convinto di essere un uomo forte, grosso, capace di fare qualsiasi cosa. Però poi ho capito quali sono le estensioni della magia e di quello che le persone che hanno il potere su questo stato, su questo mondo possono fare. Sono estremamente limitato. Ti posso assicurare che ho avuto lo stesso viaggio. C'è sempre un cane più grosso. Non mi fraintendere, però. Ho semplicemente capito quali sono i miei limiti. Questo non vuol dire che mi fermerò. Scuserò la tua profezia. Porterò a termine questa vendetta, la mia e la tua. Esistono molti tipi di armi. Questa è solo un'altra forma di ucciderla con le tue mani. Detto questo, hai già idea di chi usare per questo scopo? Penso la ragazza che ci portiamo dietro. Ti consiglio di preparare un piano di riserva. Lo farò. Troverò qualcun altro. A volte sono i tuoi nemici a essere i tuoi migliori amici. Ti rileggo la profezia prima di salutarti. Sì. Le dissi: Alexandra, dominerai la terra e chi vi dimora, ma una bambina di umili natali prenderà il tuo cielo. L'uomo si allontana, cioè rientra nella tua casa e lo senti i passi che si allontana. Sotto senti le voci di tua moglie, di tua figlia, più pianti perché deve essere piccola in questo momento. Presto, presto. Ancora non è il momento. Rimango a guardare il cielo. Il tuo sogno continua così finché non ti svegli. Mi rimane lieto. Hello. Anche per te è relativamente strano sognare. Il tuo corpo non ne ha bisogno, quindi è più come mangiare quando sei già sazio. Ugh. E nel tuo sogno sei in una versione antica di questo tempio, prima che ci costruissero la roba dei timekeepers, prima di tutto. È un cubo di marmo perfetto, ha delle incisioni che non capisci particolarmente all'esterno, e all'interno non c'è quel portone quadrato e quindi vedi direttamente cosa c'è in fondo. E l'unica cosa che ti ostruisce la vista è Arva, che con le sue spalle molto larghe ostruisce quasi interamente il passaggio. Lo saluto. Sei arrivato fin qui, eppure ti è stato negato l'accesso all'interno. È un peccato, avevo preparato un puzzle perfetto per voi, per questa volta. Devo entrarci. Se vuoi riportarmi indietro, sì. Se invece non hai bisogno di me, puoi continuare con la tua strada. Ho notato, cercando di chiamarti in altri momenti fuori da questo sogno, una visione peculiare. È un uomo molto arrabbiato, tu, che distruggi una scacchiera. Quel bastardo sa sempre come farmi incazzare. Di chi stai parlando? Credo che i tuoi amici lo chiamino l'uomo che ride. Cosa ha fatto per farti arrabbiare? Non ricordo come, ma mi ha incastrato in questo ruolo. Credi che io volessi fare il dio del tempo? Eri un essere umano? Si gira. Ti fa vedere che ha delle cicatrici sulla schiena, simmetriche. Non proprio. Eri un angelo? Qualcosa del genere, sì. Ah. E ho fatto delle cose di cui non vado fiero. Nel mio mondo era severamente vietato mangiare. E come avrei avuto modo di capire vedendomi, sono molto goloso. A me è molto grande. Sì. E quindi mi bandirono. Trovai un altro luogo in cui ero a mio agio, con persone che mi capivano, che erano simili a me. E poi persi anche loro. Sembrerebbe che non c'entri l'uomo che ride con tutto questo, ma alla fine della fiera, invece di lasciarmi morire come sarebbe stato, non dico gentile, ma umano, mi ha obbligato in un ciclo di eterne reincarnazioni. Il dio del tempo del vostro mondo. Quindi l'uomo che ride non è un essere della tua specie? O non venite dal solito posto? Non ho la più pallida idea di cosa sia. Alla creazione dell'universo c'erano un sacco di parassiti del mondo. Io, i diavoli, qualche delle divinità che pregano gli umani. E poi c'era lui. Era l'unico che sembrava averlo fatto già mille volte, mentre per noi era tutto nuovo o comunque inaspettato, mentre lui aveva questo atteggiamento, questo modo di fare estremamente fastidioso, come se sapesse tutto. E ha sempre avuto tutto quello che voleva? Da quel che so, non l'ha mai avuto. Qualcuno gli rompe sempre i coglioni, qualcuno gli impedisce sempre di arrivare fino in fondo. Quale sarebbe il suo grande desiderio? Quando mi ha parlato l'unica volta che non ha cercato attivamente di farmi impazzire, ha detto che lui era un servitore, un maggiordomo, e che il grande signore della sua villa al momento stava riposando e che doveva fare qualcosa per risvegliarlo, e che io ero un pezzo fondamentale del puzzle per risvegliarlo. Si diverte a parlare con i termini che uso io. Posso avvicinarmi a lui? Sì. E sei alto, quindi ti guarda tipo. Ma a questo punto non saresti un po' stanco? Non ti sembra il momento di voler magari lasciare le redini a qualcun altro? Credi che non ci abbia già provato? Ci possiamo provare nuovamente. Mi farebbe molto piacere. Il tuo predecessore è stato cacciato alla fine del tempo. Sì. Si fa da parte. Divertiti. Vado. All'interno del tempio c'è un oggetto che avete già visto. E per un istante questa cosa è diffusa. Tutto il party la vede. Una segnatempo che segna il 24 ottobre 1622 ed è mattino e vi svegliate tutti. Con la differenza che tu stai vedendo la segnatempo che segna la giornata esatta e poi la cosa che vedi dopo è il giorno dopo. Si conclude così che la prossima volta abbiamo il giorno dopo.